I wanna dance into the night, to the night, dance into the night. Oh, I wanna dance into the light, to the light, dance into the light. Oh. United Nation of... Arriba. arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva quello che deve arrivare, no, no, non ti preoccupare, no, no, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare, no, no, non ti preoccupare, no, no, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare, no, no, non ti preoccupare, no, no, non ti preoccupare. No, no, non arriva più quello che doveva arrivare. Preoccupati pure, preoccupati pure. No, no, non arriva più quello che doveva arrivare. Preoccupati pure. Doveva arrivare, preoccupati pure, preoccupati pure. No, no, non arriva più quello che doveva arrivare, preoccupati pure, preoccupati pure. Arriva, arriva. Arriva, arriva. Arriva, arriva. Arriva, arriva. Cause I'm your sweet lady.